Allora proviamo quello che abbiamo visto adesso, le due volte dell'inizio della Bonaccini. Stai studiando, quindi ci vuole silenzio. E quando si finisce, voi non siete mai dati segnali di registrazione, appena finito, non è che comincia no, bisogna ripetere la registrazione. Ci si fe... Hai capito, Stefano? No. Grazie.